9 in punto. La politica nel tunnel. Però a me mi sembrano che questi partiti qua, tutti e tre, stanno giocando con le figurine. Te ne do due, me ne dai una, te ne do tre, te ne do due. Che la piantano e dire, lei non siamo qui mica a vendere le noccioline. Voi siete lì per noi, non per voi. Ma fate qualcosa in fretta, perché l'Italia sta morendo. E io sono uno di quelli. Buongiorno cari ascoltatrici e cari ascoltatori, ieri avevo sbagliato i conti, ve lo dico subito, avevo detto 51, in realtà siamo al 49esimo giorno di ingovernabilità, insomma avevo sbagliato qualcosina, ancora non si vede la luce, si attendono oggi le quirinarie, gli esiti delle quirinarie. Parola orrenda, sono le votazioni online per il candidato alla presidenza della Repubblica del Movimento 5 Stelle. Si attendono quegli esiti, mentre il 18 iniziano le votazioni appunto per eleggere il nuovo capo dello Stato. E da lì vedremo come si dipaneranno tutte le vicende. Nel frattempo restano in campo e in ballo cose serie importanti, come il rifinanziamento della cassa integrazione in deroga. È un tema che vedrà i sindacati in piazza oggi tra circa un quarto d'ora e del quale tratteremo oggi. Manca, ha detto ieri il ministro Fornero, circa 1 miliardo, forse qualcosa di più. Saluto innanzitutto i nostri ospiti. Maurizio Sacconi, ex ministro del welfare, senatore del PDL, buongiorno. Buongiorno. Gianfranco Simoncini, assessore alle attività produttive, lavoro e formazione della regione Toscana ed è la persona che guida le trattative per la conferenza delle regioni su questo tema, perché la cassa integrazione in deroga passa alle regioni. Buongiorno Simoncini. Buongiorno a voi. E buongiorno a Gianfranco Polillo, sottosegretario all'economia. Salve. Buongiorno. Però una doverosa apertura di questa trasmissione va dedicata a quello che è successo ieri sera a Boston, lo sapete, le bombe, l'attentato, 3 vittime tra cui un bambino di 8 anni. Abbiamo deciso oggi di conservare la puntata su questo tema, quello della cassa integrazione in deroga, perché i pezzi del puzzle della vicenda di Boston non sono ancora composti, nel senso che sappiamo certamente che si tratta di un attentato, ma non ne conosciamo la matrice. Allora, come dire, meglio evitare di commentare e stare semplicemente sui fatti e magari far ascoltare qualche testimonianza. Apriamo dunque, parlando di Boston, con 2 testimonianze molto veloci. Sentiamo innanzitutto, raccolte da Mario Platero, corrispondente del Sole 24 Ore da New York, audio che poi troverete anche sul nostro sito www.radio24.com. Marco Cincolà, che è un maratoneta che stava correndo la maratona di Boston, là dove sono esplose le bombe, ed era, insomma, era sostanzialmente là sul traguardo quando sono esplose. Sentiamo. Io avevo appena passato la linea del traguardo, stavo facendo appena sono passata la linea del traguardo, stavamo facendo le foto di rito, quindi quando si sentono queste 2 enormi esplosioni con un tonfo secco abbastanza sordo. A me è chiaramente la prima volta che mi capita di sentire queste cose, però immaginavo subito che non si trattavano di petardi oppure di esplosioni, di fuochi di artificio, di esplosioni accidentali. Sì. Accidentali, infatti. Immediatamente si è elevato del fumo e sono apparse anche delle fiamme. Però questa esplosione riguardava la parte delle gradinate e delle transenne, quindi si è capito che il fumo veniva fuori dalla parte praticamente del pubblico, degli spettatori che erano tutti assiepati sulla linea del traguardo. E poi c'è stata la seconda esplosione? E poi c'è stata la seconda esplosione, ma a distanza brevissima, diciamo al massimo di 6-7 secondi. E andiamo proprio dalla parte del pubblico dove si trovava un'altra italiana, Valeria Mandreoli, sempre al microfono di Mario Platero. E signora Mandreoli, lei era in mezzo alle 2 esplosioni, ci hanno detto. Sì, esattamente, eravamo con 2 amiche proprio al traguardo tra le 2 bombe, diciamo, e abbiamo subito, appena esplosa la prima, capito che si trattava effettivamente di una bomba, perché l'odore della polvere da sparo era fortissimo. Il tempo di neanche capire questo, è esplosa l'altra e dopo c'è stato naturalmente un fuggi-fuggi generale. Ma signora, scusi, lei perché era a Boston? Era andata a seguire io qualcuno? Io seguivo mio marito, sì certo, tra l'altro il panico è stato proprio che perché mio marito era circa come orario prevedibile in arrivo, e quindi io non sapevo assolutamente se lui era coinvolto in questa cosa, perché... E come si è sentita in mezzo a queste? Cosa ha pensato in quei momenti? Cosa pensa una persona che sente le esplosioni intorno? È una cosa che oltretutto non abbiamo solo pensato, abbiamo anche visto, perché abbiamo visto un bambino portato via con insanguinato, che poi abbiamo saputo anche che è deceduto. Quindi sono momenti veramente... E in quei momenti non c'è probabilmente il tempo di pensare o di avere paura. Ha avuto paura, signora? Abbiamo avuto paura, perché poi fortunatamente avevo le amiche che mi hanno un po' confortato, perché ripeto, io oltre alla paura che ho vissuto in prima persona, pensavo anche a mio marito, che era sapevo che era addirittura d'arrivo anche lui, e non sapevo esattamente a che punto appunto fosse già arrivato. Doverosa, dunque, la finestra aperta su Boston e sulla tragedia di questa notte. Vedremo che cosa emergerà dalle indagini. Inizierei però sul tema della cassa integrazione in deroga. A questo punto vi ricordo l'800 24 00 24 per intervenire in diretta, alla nostra pagina Facebook che è 9 in punto Radio 24, oppure potete scrivermi su Twitter Simone Spezia. Inizierei da Gianfranco Polillo, perché poi tra poco ci deve lasciare e insomma c'è la riunione della commissione speciale, quella per l'esame degli atti di governo. Polillo, sì, allora, manca un miliardo, forse manca più di un miliardo. A questo punto l'ipotesi di una manovra correttiva ci sembra che, nonostante lo stesso il suo ministro Grilli l'abbia negato non più tardi di 2 giorni fa, ci sembra che prenda sempre più corpo, insomma, le risorse, la coperta è sempre più corta e sempre più corta da più parti, se ci consente. Sì, purtroppo la situazione è quella che lei ha descritto, è una situazione di grande sofferenza. Noi faremo tutto il possibile per cercare di arrivare a un finanziamento della SIG, prendendo i soldi dove sono, cioè evitando ulteriori aumenti della pressione fiscale che ha raggiunto livelli insostenibili e che avrebbe un effetto perverso, perché appunto se aumentiamo le tasse, quello che otteniamo per finanziare la cassa integrazione la perdiamo in termini di maggiore disoccupazione. È naturalmente una manovra di carattere di emergenza, però io vorrei sottolineare un dato che è quello più drammatico, che rappresenta la simmetria più dolorosa che c'è in Europa. Noi abbiamo un tasso di disoccupazione in Spagna del 25%, in Italia la disoccupazione ufficiale del 12%, però se ci mettiamo anche la cassa integrazione, che è perdita di ore di lavoro, arriviamo anche noi ad un livello del 25%. In Francia soltanto la disoccupazione ufficiale è del 12%, in Germania la disoccupazione è del 5%, in pratica non esiste, adesso è piena occupazione, come piena occupazione in Austria e in generale nei paesi baltici. Che cosa ci dicono questi dati? Che c'è ormai una asimmetria totale tra le tante asimmetrie che abbiamo in Europa, che è una discriminazione fortissima nei confronti dei paesi dell'Euromed, mentre i paesi baltici avanzano su una condizione di normalità produttiva. Dobbiamo quindi fare una riflessione sulle politiche finora seguite, non tanto per mettere in discussione gli equilibri di bilancio. L'obiettivo del pareggio di bilancio va perseguito, per noi rappresenta, come gli ascoltatori sanno, un vincolo di carattere costituzionale che è inaggirabile. Il problema è la politica monetaria. Noi abbiamo una politica monetaria troppo restrittiva, che ha determinato una forte rivalutazione dell'euro nei confronti delle altre monete, e questo significa quindi perdita di mercati internazionali, compressione delle possibilità di sviluppo. Quindi questo è il tipo di riflessione. Io do soltanto un dato: la rivalutazione dell'euro nei confronti dello yen è stata di circa, oscilla tra il 20 e il 30%. Siamo veramente in una situazione paradossale. Mi scusi, sottosegretario, io queste questioni le capisco benissimo, però non sono questioni che riusciremo a risolvere nel breve termine. Nel breve termine c'è la questione appunto del rifinanziamento della cassa integrazione in deroga. Cercheremo di assicurarlo, però è un breve termine che si deve saldare con il medio termine. Sì, ma le risorse da dove si cavano? Cioè, servirà una nuova manovra oppure no, secondo lei? Ma io per il momento tendo a escluderlo, perché appunto si tratta di una cifra tutto sommato gestibile di 1 miliardo. In più avremo da rifinanziare, anche se il prossimo governo, sempre che si formi questo nuovo governo, che è il vero handicap, come diceva il vostro ascoltatore prima, della situazione italiana, avremo poi come altre spese da sostenere il rifinanziamento delle missioni all'estero, perché sono state finanziate soltanto fino al 30 settembre e una parte fino al 30 giugno, ma lì si tratta di 400-500 milioni da trovare. Poi ci sono un po' le cosiddette spese esigenziali, che sono le spese che generalmente derivano dal fatto che, avendo compresso molto le spese di bilancio nei mesi passati, ci troveremo di fronte a situazioni di oggettive emergenze in qualche ministero, in enti locali. Però questo deve rientrare poi nella politica che farà il nuovo governo, che dovrà indicarsi gli obiettivi e trovare le risorse per finanziare gli obiettivi che può perseguire. Noi siamo sempre in una fase di ordinaria amministrazione, certo. Quindi il nostro compito è per il momento far fronte alle scadenze immediate, una di queste appunto è la cassa integrazione guadagni. Ultima domanda che le faccio: ammettete a questo punto un errore di calcolo come governo, nel senso che no, il finanziamento della cassa integrazione in deroga era previsto a quella cifra, mi pare che fosse 1.600 milioni di euro, sì, dalla manovra di giugno. Avete fatto un errore a questo punto? No, perché prevedevamo che appunto nel frattempo ci fosse il nuovo governo che, nell'ambito di una propria strategia di politica economica, trovasse le risorse necessarie e sufficienti. L'elemento che ha scardinato tutto è il fatto che sono 50 giorni appunto che andiamo avanti con questa, non so come definirlo, insomma, ma certo è una situazione di anormalità costituzionale, la prima volta nella lunga storia della Repubblica Italiana in cui, a distanza di tanti giorni, non solo non si ha un governo, ma non siano nemmeno le coordinate di fondo per cercare di costruire qualcosa di diverso. Speriamo appunto che nei prossimi giorni, con l'elezione del Presidente della Repubblica, ci possa essere un chiarimento del quadro politico complessivo. Sfido chiunque a prevedere che fosse successa una cosa di questo genere, è impossibile prevederla. Grazie Gianfranco Polillo, sottosegretario all'economia, la lasciamo ai lavori della commissione. Io passerei a Maurizio Sacconi, ex ministro del welfare, senatore del PDL. Senatore Sacconi, io partirei, anche se come dire, il suo specifico naturalmente è più in generale, il tema del lavoro come naturale, però da quello che ci diceva Polillo, la mia impressione è che poi alla fine una manovra correttiva toccherà farla, viste le dimensioni. Polillo ci dice 1 miliardo si recupera, beh insomma mica tanto facilmente poi. È evidente che il governo in carica ha lasciato il governo successivo, l'ha detto esplicitamente Polillo, la responsabilità di ritarare la politica di bilancio sulla base di una serie di esigenze che sono state anche richiamate da Polillo e che non comprendono soltanto l'integrazione delle risorse per gli ammortizzatori sociali. In questo caso temo stiamo pagando le conseguenze di una gestione non controllata tra Stato e Regioni degli ammortizzatori in deroga nel corso del 2012, anno nel quale sono esplose le relative spese e soprattutto è esploso l'impiego della cosiddetta mobilità in deroga, cioè di una indennità che viene erogata in deroga rispetto agli strumenti ordinari quando il rapporto di lavoro si è del tutto consumato e qui soprattutto alcune regioni. Quindi mi scusi, un'estensione impropria della cassa integrazione, in sostanza lei dice? Più che un'estensione impropria della cassa integrazione, un uso accentuato di uno strumento che agisce al posto dell'indennità di disoccupazione o dell'ASPI, la nuova indennità di disoccupazione che è stata introdotta dalla riforma Fornero, cioè uno strumento davvero eccezionale che invece è stato impiegato più diffusamente in alcune regioni. In aggiunta si deve tenere conto che nel 2012 le regioni, per ragioni varie ma anche di insufficiente forse gestione da parte del governo della situazione non hanno concorso come in passato al finanziamento di queste risorse. Secondo il primo accordo che avevamo realizzato già nel 2008 dovevano concorrere per il 30%, successivamente dovevano concorrere per il 40%, sostanzialmente nel corso del 2012 ha pagato in tutto e per tutto lo Stato. Ora davvero bisogna, come sa l'assessore Simoncini, bisogna rinegoziare questo patto, rinegoziarlo innanzitutto dal punto di vista dei modi oculati con i quali utilizzare strumenti straordinari che si sono rivelati utilissimi, perché sono strumenti flessibili che in prossimità, cioè nei territori, le regioni possono e devono gestire con intelligenza, d'intesa con le parti sociali, perché non si disperda capacità produttiva e si proteggano le persone garantendo coesione sociale, ma con molta attenzione all'impiego di questi strumenti che, in quanto, come dice la parola stessa, sono in deroga, devono essere utilizzati tali devono essere, dice lei, appunto, in deroga. Questo vuol dire riprendere il controllo della situazione e realizzare, rinnovare questo negoziato che deve condurre a una rinnovata, leale collaborazione fra lo Stato, le regioni e le organizzazioni sociali. Proprio per continuare a salvaguardare il patrimonio industriale e a salvaguardare le persone. Il punto è chiaro. 9 in punto. Riprendiamo a parlare di questi temi, della cassa integrazione in deroga e soprattutto di questi soldi che mancano, una previsione di budget a ribasso, evidentemente, ce l'ha detto anche Gianfranco Polillo, sottosegretario all'economia, dicendo abbiamo pensato di lasciare l'incombenza al prossimo governo. Allora, Gianfranco Simoncini, assessore alle attività produttive, lavoro e formazione della Regione Toscana, che guida le delegazioni della Conferenza delle Regioni nelle trattative su questi temi, ha sentito Sacconi, ha sentito Polillo. Tra l'altro, in realtà non manca, stiamo titolando tutti sul miliardo di euro, in realtà manca più di un miliardo di euro. La preoccupazione nostra è che manchi di più, perché noi chiudiamo il 2012 con 2 miliardi e 400 milioni di spesa, seguendo un trend che ha portato a 770 milioni del 2009 al miliardo e mezzo nel 2010, al miliardo e 6 nel 2011, a dimostrazione che c'è una crisi forte, pesante, che colpisce le grandi e le piccole imprese, ma che ora inizia a colpire anche le grandi imprese, perché direttamente da cosa diceva il ministro Sacconi, noi oggi scontiamo anche il fatto che sulla cassa in deroga stanno arrivando, soprattutto nelle regioni del nord, ma anche in Toscana, tante grandi aziende che hanno terminato la fase, diciamo, ordinaria degli ammortizzatori e che invece di licenziare i lavoratori perché li vogliono tenere legati alla propria attività in attesa della ripresa, stanno iniziando a chiedere la cassa in deroga. Quindi siamo arrivati a 2 miliardi e 4. I primi mesi dell'anno hanno visto richieste dell'ordine del 60%, 40-60% in più rispetto ai primi tre mesi dello scorso anno. Noi abbiamo fatto una previsione, diciamo, ottimistica, dicendo che aumenterà del 25% la richiesta, quindi se vediamo da 2 miliardi e 4 più un 25% arriviamo intorno a 3 miliardi come fa bisogno nel 2016. Peraltro noi stiamo anche lavorando… Vuol dire che quello che manca è 1 miliardo e 4? Secondo me sì, poi si tratterà di vedere… Ci sarà un'ulteriore fase di ripresa che potrebbe aiutare molto. Le regioni tra l'altro hanno cambiato, soprattutto quelle regioni che avevano utilizzato maggiormente la mobilità, i propri accordi riducendoli. D'altra parte voglio ricordare anche il fatto che vi fossero regioni che hanno avuto anche un maggior utilizzo della mobilità rispetto alla cassa, è dovuta anche al fatto che le regioni hanno messo prima il 30 e il 40%. E rispetto alla cosa che diceva il ministro, l'ex ministro Sacconi, che le regioni non hanno contribuito, io purtroppo devo dire che è completamente non vero, perché a marzo, diciamo ai primi di marzo, erano soltanto 3 le regioni che dovevano saldare la propria quota a parte, e che comunque lo devono fare perché è un'obbligazione che hanno nei confronti dello Stato. Simoncini, adesso torniamo da lei, magari cercando di riprendere la linea, perché non è che si sentisse proprio in maniera straordinaria. Io so che è in treno, ma penso ci fosse proprio un problema di linea in questo caso e di come l'abbiamo presa noi. Saluto intanto Cesare Damiano, il Partito Democratico, buongiorno. Buongiorno a lei. Allora, ha sentito Simoncini, 1,4 miliardi. Io, mi scusi, su queste cose ci divento matto. Allora, se hai finanziato nel 2012 2,5 miliardi di cassa integrazione in deroga e per il 2013 prevedi solamente... Solamente, chiaramente dovrai prevedere un aumento, o insomma prevedere solamente 1 miliardo e scoprire adesso, a 2 mesi dal momento nel quale molte regioni non avranno più soldi in cassa, che li devi aggiungere, la mia equazione è uguale manovra aggiuntiva o correttiva. Io non lo so se c'è bisogno di una manovra aggiuntiva, sicuramente i numeri che ha riportato Simoncini sono veritieri, sono quelli che anch'io ho spiegato in questi giorni, peraltro sentendo anche Simoncini, perché la matematica non è un'opinione, quindi io non ripeto quello che è stato detto, ma se tanto mi dà tanto, avendo stanziato per quest'anno grosso modo 1,5 miliardi, se dobbiamo salire a 3 basta fare la differenza, ne manca un altro 1,5 miliardi e poi c'è da saldare il conto del 2012, lì mancano all'appello mi pare altri 200 milioni, quindi sì, è su oggi, è su questo tra l'altro che oggi ci si riunisce, su questi 200 milioni, cioè oggi c'è un incontro al Ministero, però non si discute ancora dei soldi del 2013, ma di quelli appunto della coda dell'anno scorso, perché appunto, anche questi mancano all'appello. Quindi insomma, gira, siamo lì, 1,5 miliardi, 1,6 miliardi, 1,4 miliardi, sono soldi che vanno messi. Io capisco che il governo molte volte gira attorno ai numeri, però ormai siamo arrivati alla prova del budino, perché l'incontro con le parti sociali metterà in luce la situazione reale. Ma quello che è preoccupante è che se queste risorse non ci fossero, quelle persone che resterebbero senza reddito si aggiungerebbero agli attuali disoccupati, quindi un'altra onda d'urto dentro una crisi sicuramente dura e difficile. Io non so fino a che punto possiamo tirare questa corda, perché la corda si strappa. Poi io sentivo ieri un esponente casaleggio del Movimento 5 Stelle che dice vabbè, facciamo il reddito di cittadinanza, togliamo la cassa integrazione. Vorrei ricordare a questo signore, che forse non conosce le fabbriche, che la cassa integrazione, Simoncini diceva, anche le grandi imprese utilizzano la cassa in deroga proprio per non licenziare i propri dipendenti. La cassa integrazione ha una caratteristica, quella di far rimanere la persona in cassa integrazione dipendente dell'azienda. Non è una cosa di poco conto, perché altrimenti se tu dai un reddito di altra natura, quella persona lì non ha più il lavoro, non rientra nel caso in cui torni il sole e ci sia una ripresa, sarebbe escluso, sì, sarebbe uno quello che però diceva Maurizio Sacconi, che abbiamo ancora in linea tra l'altro e che sarà con noi fino alla fine della puntata, dice sì, però occhio che in realtà più o meno, mi corregga se sbaglio senatore Sacconi, dice occhio che quelli in realtà di fatto sono già disoccupati, nel senso che spesso è cassa in deroga di fatto di aziende cotte, insomma, comunque di posti di lavoro che non ci saranno più in quelle aziende. Esatto, io mi sono riferito alla mobilità in deroga, sì. È un'altra indennità. Un'altra cosa. Ah, ok, perfetto, sulla mobilità. Mobilità è un'altra cosa, sì, perché sì, quando un lavoratore entra in mobilità e già, come si dice, sì, ha rotto, interrotto il rapporto di lavoro, quel lavoratore lì in mobilità non rientra nell'azienda d'origine. Quando parliamo di cassa ordinaria e straordinaria in deroga, tu mantieni quel filo sottile che è il rapporto di lavoro, nella presunzione naturalmente che la tua azienda, superato il periodo di crisi, possa ritornare, come si dice, alla situazione ex ante o in parte. Allora a quel punto ci sarà un negoziato che vede se ci sono degli esuberi, se qualcuno va messo in mobilità, se si mettono i più anziani. In sostanza, uno Stato previdente, parti sociali che contrattano tra di loro, e che cosa hanno a cuore? Hanno a cuore di evitare al massimo, di fronte a una crisi, che le persone rimangano senza nulla, senza alcuna protezione. Come si fa? Si fa con l'ammortizzatore, ma questo capita in tutto il mondo, non è soltanto una questione italiana. In più, quando parliamo di cassa integrazione ordinaria e straordinaria, ripeto per l'ennesima volta, che sono soldi di una mutualità che le aziende insieme ai lavoratori si pagano. Altra cosa è la cassa integrazione, che viene invece sostenuta con soldi, diciamo, di tutti i contribuenti. Ma quell'altra è una mutualità che secondo me andrebbe estesa a tutti i settori, anche quelli che tradizionalmente, perché è una tradizione dei settori industriali, non hanno utilizzato questo strumento. Io metto da parte nei momenti di vacche grasse un gruzzolo che poi consumo nei momenti delle vacche magre. Delle vacche magre. Sì, io poi ho una domanda per entrambi, sia per lei che per Maurizio Sacconi, ossia che quei conti là sulla cassa in deroga è roba che poi in Parlamento avete votato sia come PD che come PDL, però ci arriviamo tra un attimo, perché voglio anche sentire qualche ascoltatore. Innanzitutto Francesco, che ci chiama da Milano, buongiorno. Pronto? Sì, buongiorno Francesco, prego. Buongiorno. Io volevo intervenire perché sono rimasto un po' allibito dall'intervento del sottosegretario Polillo, che diciamo non si riconcilia quello che aveva detto Monti: lasciamo i conti a posto, no? Cioè lasciare i conti a posto e poi lasciare un miliardo e mezzo di eredità ai successori, più altre possibili bombe a orologeria, super IMSS, piuttosto che altri regali fatti così per riorganizzare, lasciando l'eredità agli altri, non vuol dire mettere i conti a posto. Mi sembra un po' un atteggiamento, cioè, che in un'azienda uno dice almeno guarda i prossimi 2 o 3 anni, qua si è guardato giusto i 6 mesi del governo e 50 giorni di ritardo hanno provocato l'esplosione di una bomba, ecco. Grazie Francesco, è esattamente il punto sul quale, del quale stiamo parlando e sul quale ci stiamo confrontando. Chiederei brevemente, perché poi dobbiamo andare in viabilità, abbiamo una breve pausa, a Maurizio Sacconi di rispondere a questa sollecitazione dell'ascoltatore e anche alla mia. Cioè, dico, insomma, quando avete votato, no, era prevista la manovra di giugno, se non erro, questo finanziamento, però l'avete votato anche voi, no? A dire il vero, i due relatori, del Brunetta del Popolo della Libertà e Baretta del Partito Democratico, hanno insieme alzato le risorse destinate agli ammortizzatori in deroga attraverso anche la possibilità di impiegare sia le risorse per la formazione dei fondi interprofessionali, sia utilizzando i fondi europei, tema che si riproporrà, io credo, nel futuro, quello di utilizzare soprattutto i fondi europei, il fondo sociale europeo in modo particolare, ancor più di quanto non si sia utilizzato già in modo significativo nel corso di questi anni. Il controllo dei conti nell'insieme, mi auguro, che si rivelerà esservi. Certo che ci sono esigenze aggiuntive e che è stato colpevole non avere sufficientemente governato nel 2012 la gestione di uno strumento delicato ed utile come quello degli ammortizzatori sociali in deroga, e non avere conseguentemente dotato di risorse adeguate questa primaria esigenza. Nel corso degli anni trascorsi noi avevamo sempre garantito risorse adeguate, tanto che una frizione di questo tipo non si era mai prodotta. Fin dall'inizio pensammo di garantire una dotazione significativamente superiore all'effettivo bisogno, proprio perché si producesse un clima di sicurezza e non si determinassero quelle attese che dalla fine del 2012 si sono prodotte e che mettono a repentaglio sia coesione sociale che continuità di molte imprese, anche se poi alla fine sono stati presi impegni e poi alla fine si pagherà, ma se si pagherà troppo tardi verrà meno la condizione di sicurezza di molte persone e la sopravvivenza di molte imprese. 9 in punto. Allora, Cesare Damiano, forse in fase di approvazione di quello stanziamento di risorse andava fatto, mi perdoni l'espressione, un po' più di casino in Parlamento. Ma guardi, casino in Parlamento ne abbiamo combinato abbastanza, sia sul tema della cassa in deroga, sia sul tema dei cosiddetti esodati, parola che non ricomprende tutte le famiglie di quel lavoratore rimasto senza reddito per una brutta riforma delle pensioni. Però, sa, bisogna anche capire che alle volte ci si trovava contro un muro di cemento armato, nonostante le buone argomentazioni. Dopodiché, io credo che il punto è l'eredità che il governo Monti lascia al successivo governo, e la seconda questione è domandarsi quello che si farà nel documento di economia e finanza che dovrebbe essere varato nei prossimi giorni. Cioè, la domanda che io mi faccio, lì dentro ci sarà la soluzione a questo problema? Lì dentro ci sarà la soluzione, ad esempio, per quanto riguarda il rifinanziamento del fondo per salvaguardare le persone senza reddito perché non possono andare in pensione, dato che il traguardo è stato spostato di anni? Questa è la domanda che mi farei. Oggi i sindacati manifestano unitariamente su questo tema, come lei sa. Sì. Della cassa, pensavo che fosse caduta la linea. No, della ci siamo. Della cassa integrazione in deroga, come Partito Democratico noi li incontreremo. C'è anche il confronto tra governo e parti sociali su questo punto. Quindi ormai siamo arrivati, diciamo, al capolinea, alla prova della verità. Io dico che noi non possiamo semplicemente fare manovre aggiuntive che siano, correttive che siano, portare al 3% il deficit nel limite massimo consentito dall'Europa, senza domandarsi se accanto al tenere i conti in ordine non ci sia il problema di tenere i problemi sociali in ordine, perché avere un bilancio che quadra, perfettamente allineato con l'Europa, con milioni di persone che sono, diciamo, a rischio povertà, non hanno più lavoro, non hanno la cassa integrazione, non hanno la pensione, mi pare che sia un cattivo servizio a questo paese. Quindi è inutile che ci giriamo attorno, questi soldi vanno tirati fuori. Siamo quasi in chiusura, vorrei sentire ancora Gianfranco Simoncini per capire da lui, che ha sott'occhio la situazione un po' di tutti i suoi colleghi, insomma gli altri assessori al bilancio e al lavoro delle regioni, a che punto siamo, cioè se ci sono regioni che hanno già esaurito i fondi e quali, e quali sono le prossime? Ma siamo al punto che già se le regioni Toscana, Emilia Romagna, Piemonte, Marche, hanno Veneto, Lazio, hanno terminato i soldi per l'autorizzazione, la Lombardia sostanzialmente è nella stessa situazione, Liguria e Abruzzo lo faranno nei prossimi giorni. E quindi siamo in una situazione nella quale, ad esempio in Toscana, noi abbiamo autorizzato i pagamenti della cassa in deroga fino al 30 di gennaio. Per quanto riguarda la mobilità l'abbiamo autorizzata fino al 28 di febbraio e poi stiamo attendendo che arrivino nuove risorse. E voglio anche sottolineare un altro fatto, che i 200 milioni che mancano sul 2012 fanno sì che in molte regioni, per fortuna in Toscana sono pochissimi lavoratori, che in molte regioni ci sono lavoratori che devono ancora riscuotere le indennità di novembre e di dicembre. Quindi è una situazione sociale pesantissima. Quindi rispetto alla sua domanda che faceva prima a Cesare Damiano, la risposta deve essere sì. Il governo e il Parlamento deve trovare le risorse per coprire la cassa integrazione e la mobilità in genere. Dopodiché forse bisognerà ulteriormente riflettere sugli ammortizzatori, come diceva Cesare Damiano, anche sulla compartecipazione, diciamo, di tutte le aziende a un sistema di protezione sociale. Però questo non lo si può fare nel mezzo della crisi, lasciando milioni di lavoratori senza un minimo di reddito che è in tanti casi l'unico reddito che entra in casa, in famiglia. Grazie, grazie a Gianfranco Simoncini, a Cesare Damiano e a Maurizio Sacconi. Io vi ricordo i nostri contatti, 9in.radio24.it, l'email se volete, c'è la nostra pagina Facebook, facebook.com/9in.radio24, dove prosegue anche, se volete, la discussione sui temi della trasmissione e anche su altri temi di attualità. Naturalmente è un piacere. Se volete mi trovate su Twitter, Simone Spezia. Io chiedo scusa a Carlo da Cremona, Stefano da Brescia e a tutti gli ascoltatori che questa mattina non sono riuscito a far intervenire, ma abbiamo oscillato, come avete sentito, tra le vicende di Boston, che rimane sempre naturalmente sotto i riflettori, l'esplosione, le bombe alla maratona, sulle quali vi aggiornerà tra poco il GR, e la vicenda della cassa integrazione, quindi non c'è stato abbastanza spazio per farvi intervenire. Le prossime volte, naturalmente, quando volete. Grazie anche a Carmelo Lauricella in regia, Alessandro Marcotulli in redazione. Grazie a tutti voi per l'ascolto. Ci sentiamo domani dopo il GR delle 9. Ricordati! Mancano 75 giorni all'aumento dell'IVA. Però a me mi sembrano che questi partiti qua, tutti e tre, stanno giocando con le figurine. Te ne do due, me ne dai una, te ne do tre, te ne do due. Che la piantano e dire, lei non siamo qui mica a vendere le noccioline, voi siete lì per noi, non per voi, ma fate qualcosa in fretta, perché l'Italia sta morendo, e io sono uno di quelli. Radio 24, la passione si sente.